Opinioni Libera presenta Lucciole nelle Tenebre. Lucciole nelle Tenebre vi dà il benvenuto ad una nuova stagione. Avete notato la nostra nuova sigla? Vi piace? Vabbè, anche se non vi piace, ve la fate piacere. Ma che Itaccia consente dopo tutto. Qui in studio Flavia, Ilaria, Peppe, Stefano. Ma entriamo subito nel vivo della nostra puntata. Oggi parliamo di MUOS e del movimento No MUOS. Sicuramente in questi giorni avrete sentito parlare di tutta sta roba, dato che c'è stata anche la manifestazione a Palermo e alla fine di settembre. E oggi vogliamo un po' spiegarvi di che cosa si tratta. Ilaria, ci diresti in breve cos'è il MUOS? Il MUOS è un sistema di telecomunicazione satellitari statunitense. Questo sistema ha l'obiettivo di controllare tutti quanti i sistemi militari dislocati nel globo, sia al di sopra che al di sotto della superficie terrestre. Tale sistema è situato all'interno della riserva naturale della sugheretta di Niscemi, che tra l'altro è anche una delle uniche, l'unica anzi in Italia, ad avere ancora alberi da sughero. Tutelata anche, stranamente, da leggi rigorose che vietano qualsiasi intervento umano. Che dovrebbero. Ma siamo in Italia, dice Ste. Italian law for our American people is not a problem. Comunque mi sa che queste... Ma cosa potrebbero comportare tali installazioni? Potrebbero comportare effetti biologici su esseri umani, flora, fauna, in un raggio di circa 140 chilometri. Ma parliamo anche dei diritti che vengono violati da tali sistemi, Flavia. Ok, un attimo, sembra l'interrogazione di diritto costituzionale, però posso arrivarci. Viene sicuramente violata la salute, il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, stiamo parlando di un ecosistema che viene violato completamente, quello della sughereta, e la qualità dei prodotti agricoli che perdono sicuramente di qualità, e il diritto alla mobilità, allo sviluppo del territorio e soprattutto il diritto dei cittadini siciliani di poter godere liberamente del proprio territorio, per la prepotenza dei soliti americani che vengono a fare i padroni a casa nostra. Entriamo nel vivo della vicenda. Facciamo un po' la storia di questa vicenda. Facciamo un po' la storia e cerchiamo di capire come sono andate le cose, almeno dal momento in cui qualcuno all'interno dei palazzi istituzionali si è reso conto che gli americani stavano un po' forzando la mano con questo MUOS. Cos'è successo, Flavia? Ti ricordi? Tutto è cominciato esattamente un anno fa e la procura di Caltagirone aveva disposto il sequestro della stazione radio MUOS di Niscemi proprio per la violazione di quelle prescrizioni a tutela della sughereta di cui stava parlando poco fa Ilaria. Tuttavia, nemmeno una settimana dopo, il Tribunale di Catania ha revocato il sequestro, dando il via alla ripresa dei lavori, perché non si sa ancora. Il nostro caro presidente della regione Crocetta, a gennaio, ha sospeso i lavori richiedendo delle informazioni sull'impatto ambientale e sulla salute dei cittadini che poteva avere il MUOS. Quindi informazioni che poi col tempo, bene o male, sarebbero dovute arrivare. Chiaramente per cautelarsi il presidente Crocetta, forte del potere che i siciliani gli hanno dato di rappresentarli, ha revocato a fine marzo le autorizzazioni per la costruzione del MUOS. E cosa è successo? Nel paese delle contraddizioni, quale è l'Italia, il Ministero della Difesa ha deciso di fare ricorso al TAR siciliano, chiedendo l'annullamento della revoca e soprattutto il risarcimento ai danni. Il Ministero della Difesa, cioè il ministero italiano che dovrebbe occuparsi anche della tutela della salute dei cittadini, non American people, il Ministero della Difesa italiano, ragazzi. E cosa accade a fine luglio? La revoca della revoca. Il presidente Crocetta ha preferito revocare la revoca delle autorizzazioni proprio per evitare poi di essere condannato al risarcimento dei danni, vista anche la risposta data dalla richiesta di informazioni. Dalla richiesta di informazioni, appunto, da questa relazione di cui poi parleremo anche più avanti, dove si dice che per verificare la dannosità del MUOS bisogna prima accenderlo. Allora, grazie. Accendiamo il MUOS. Ma come con le centrali nucleari, più o meno, accendiamole. Prima, poi qualche vediamo succede. Vediamo quanti ne muoiono prima, dai. E quindi diciamo che Crocetta, un attimino preso in difficoltà alla sprovvista, ha dovuto prendersi non poche critiche da un movimento che già da tempo battagliava su questo campo, che è proprio il movimento No MUOS. Il movimento No MUOS è un movimento di stampo pacifista, anche perché si vociferava che era anche di stampo mafioso. Poi Crocetta se ne è uscito con una delle sue proprio mitiche battute. Ilaria, tu sei una No MUOS, vero? Tutti siamo un po' No MUOS. Tutti, tu Peppe sei un No MUOS? Io sono un No MUOS. Ma che cos'è il movimento No MUOS? È un movimento. Allora, è un movimento naturalmente totalmente spontaneo, un movimento nato spontaneo all'interno della regione Sicilia, e non solo, vorrei sottolineare, e non solo naturalmente. E qual è comunque l'elemento che caratterizza tutti quanti i non-MOS? E sono spontanei. Sono spontanei, ma perché combattono? Un movimento che non si arresta e che ha dato prova di sé negli ultimi mesi. Questa è la parte in cui divento serio, perché appunto qualche giorno fa mi è capitato di fare una telefonata da microfoni della nostra radio. Qualche giorno prima della manifestazione che si è tenuta il 28 settembre a Palermo. Giorno del mio compleanno, vorrei sottolineare. Ci tenevamo pure questo a sottolinearlo. Facendo gli auguri a Peppe per il suo compleanno, anche se in ritardo, ci dobbiamo dedicare un attimo una pausa. Tanto caldo. Dopo la nostra canzone ascolteremo l'intervista con Nadia Furnari del movimento No Muos. La canzone invece è dei Franz Ferdinand, Evil Eye. Non avrei saputo dirlo meglio. Bentornati ai nostri ascoltatori qui a Luce nelle Tenebre, oggi con un ospite speciale, direttamente in collegamento da Palermo, Nadia Furnari del movimento No Muos. Nadia, ci sei? Sì, ci sono. Ciao a tutti. Ciao Nadia. Ti chiamiamo oggi e sappiamo appunto che ci stai rispondendo da un posto particolare. Cosa sta succedendo? Ma sì, sono davanti all'ARS, che sarebbe il Parlamento siciliano, e siamo i ragazzi, una ventina di attivisti. Hanno pagato regolarmente il biglietto per entrare a visitare Palazzo dei Normanni e alla fine hanno occupato la sala del Parlamento siciliano. Ci sono degli striscioni fuori di questi finestroni di Palazzo del Nord, del Palazzo della Sala d'Ercole, che dicono No Muos, no la guerra, insomma. Quindi è un'occupazione simbolica per dire che il Parlamento, ma non solo quello siciliano, i parlamenti in generale dovrebbero legiferare o prendere decisioni in nome del popolo sovrano e non degli interessi di bottega, che sia una bottega internazionale o che sia una bottega nazionale o che sia una bottega regionale. Popolo, questo siciliano, questo impianto, questa base non la vuole, non vuole la guerra, non vuole che la Sicilia diventi teatro di guerra, ma una terra di pace e quindi devono prenderne atto e devono far andare via le basi americane, devono smantellarle. L'ennesimo atto coraggioso, direi, del movimento No Mus, che è praticamente alla ribalta nazionale ormai da qualche mese. Noi naturalmente conoscevamo la questione già un po' da prima e ci chiedevamo come appunto mediaticamente questa cosa stesse poi influendo sul sistema informativo nazionale, dato che comunque per noi è importante parlarne anche qui da Bologna, dai microfoni della radio. Il movimento sicuramente non nasce adesso che è nata tutta la bagarre fra il presidente Crocetta e questa storia di revoca, non revoca, di cui qui arriva l'eco, ma nasce da molto prima. Come è nato questo movimento, Nadia? Perché appunto ci sembrava anche qualcosa di molto particolare da spiegare. Il movimento nasce parecchio tempo fa. Diciamo che negli ultimi due anni c'è stato una progressione a Niscemi, ma anche nel resto della Sicilia. Quindi il movimento nasce inizialmente per un problema di salute. Via via prende coscienza che questi sistemi sono strumenti di morte. Poi c'è un problema ambientale, cioè lo sventramento del nostro territorio, perché il tutto nasce in una riserva, in un terreno, territorio SIC, quindi di interesse comunitario. Il problema è che questo movimento stenta ad avere a fare notizie a livello nazionale, perché è quasi non si volesse far sapere che dalla Sicilia i siciliani si oppongono a tutto questo, e perché ci hanno provato. Allora, con i Notav dicono che hanno dentro i terroristi, e con noi hanno provato a dire che avevamo dentro la mafia, non ce l'hanno fatta, e quindi a volte basta oscurarci. Però noi, grazie al web, grazie a quella parte di informazione libera come la vostra, riusciamo comunque ad andare oltre i TG, a far sapere che esistiamo. Diciamo che lì vi hanno dato anche una carta facile per rispondere quando hanno parlato di infiltrazioni mafiose, perché ci siamo messi un po' a ridere tutti quanti, dato appunto. No, anche perché voglio dire, la mafia francamente non ha nessun interesse a schierarsi con il movimento No Mus. E non vorrei ricordare che il presidente Crocetta non ha completamente neanche presentato una denuncia per il fatto che c'è un'azienda che non possedeva certificato antimafia potesse lavorare all'interno di una base che comunque, pur essendo americana, dovrebbe rispettare le leggi italiane. Però questa dichiarazione del presidente Crocetta comunque non è passata inosservata. Io sono tra i firmatari della denuncia querela per diffamazione. L'altra domanda che ci ponevamo, Nadia, è una cosa che ci ha lasciato un po' allibiti in queste settimane: il fatto che, al di là delle varie relazioni contrastanti fra loro, quella dell'ARPA che dice appunto che vi sono dei livelli di dannosità per la salute delle persone particolari rispetto a quella governativa, dove c'era un attimo un lavarsi le mani rispetto a quella che era la situazione, ma la cosa che ci colpì in particolare era come, dopo tutti questi anni, ancora un popolo non ha la possibilità di poter dire, al di là dei danni appunto alla salute che potrebbero esserci, io non voglio delle armi, non voglio degli stabilimenti americani che portino guerra, che portino terrore nella mia terra. Era qualcosa che una riflessione che abbiamo fatto e che penso vi sarete posti anche voi. Ma allora, sotto campagna elettorale sono tutti contro, poi si scoprono che ci sono sempre i cavilli. Il discorso della salute è chiaro, che i 46 antenne superano abbondantemente i limiti massimi di emissione di onde elettromagnetiche. Quindi anche la relazione dell'Istituto Superiore di Sanità, quella ufficiale, quella di maggioranza, non è che non dice che il MUOS non fa male, dice che non hanno dati sufficienti per dire che il MUOS fa male. E quindi praticamente tanto che consigliano poi alla fine di monitorare. Beh, il discorso che ci dovremmo chiedere, perché in Italia tutto ciò che decide il popolo non conta. Abbiamo fatto un referendum per ripubblicizzare l'acqua, se ne stanno completamente fregando. Il problema è che gli italiani dovrebbero imparare a scendere in piazza. Sta passando, con questo discorso della crisi, un principio della rassegnazione che è estremamente pericoloso. Ecco perché questi ragazzi che oggi hanno occupato Sala d'Ercole vogliono dire, il loro messaggio è quello di dire ai siciliani: svegliatevi, perché la rassegnazione significa morire. La rassegnazione è una delle migliori armi del potere per metterci i piedi in faccia e per decidere. Un popolo rassegnato è il massimo per il potere, è quello che il potere vuole. Il potere vuole e lavora per un popolo rassegnato, per cui Questo un po' chiude il cerchio di quello che il gesto di questi ragazzi oggi e quello che noi andremo a dire domani alla manifestazione. Allora Nadia, noi ti ringraziamo per il vigore sempre costante che stai dando alla voce dei NoMuos in questi giorni. Ti ringraziamo per questo intervento in radio. Noi continueremo a parlare di Muos ancora per tutta quanta la puntata, quindi la tua era una testimonianza direttamente dal campo e ci ha fatto un sacco piacere averla. Grazie a voi. Grazie, grazie Nadia, per a presto. Grazie. Figurati, ciao. Ciao. Ciao, ciao. I capelli da sola, ma fai, mi sento una persona nuova. Ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria, sembrerò in vena. Shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Vorrei volentieri un caffè, mi pestano i piedi da un'ora, ho le scarpe da sera ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici. Ti conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici. Nelle tenebre non finisce di stupirvi oggi. Oltre alla nuova sigla, vogliamo lanciare quest'oggi una nuova rubrica. Cultura, una rubrica culturale. Che chiameremo? Forse. Chiameremo? Elsa Buffier, la rubrica Buffier. Elsa? Che è Buffier. Proprio il protagonista della nostra prima puntata. Della nostra prima puntata. Libera si è stufata di fare soltanto antimafia, attualità, politica. Vero. Vogliamo, ragazzi, parlare di cultura. Di film, di libri, letteratura. Eversivi. Siamo persone intelligenti. Oggi parliamo di Gian Giono, che ha scritto un libro che si chiama L'uomo che piantava gli alberi, che parla di questo protagonista a cui noi dedichiamo la nostra rubrica, che si chiama appunto Elsa Buffier. È un personaggio mitologico purtroppo per noi. Anche se a me piace pensare esistito realmente. A cui pensiamo di ispirarci da oggi alla fine di quest'anno. Perché? Perché praticamente questo era un semplice pastore che ha trascorso tutta la sua vita piantando una cosa molto semplice, piantando delle ghiande. Piantava 10 ghiande al giorno per poi ritrovare dopo 10, 20, 30 anni 10.000 o anche di più querce secolari. L'anno scorso la canzone diceva che noi siamo lucciole nelle tenebre. Rimaniamo delle lucciole nelle tenebre, ma quest'anno... Ma sappiamo anche di avere del potere, che è la nuova novità che abbiamo ricevuto da Raduno. People have the power, quindi l'uomo, un unico uomo, ha il potere di fare una cosa stupenda. Poter cambiare le cose, magari. Come piantare appunto tutte queste querce. Noi piantiamo dei semi di giustizia, sperando che attecchiscano, sperando che con questa nuova rubrica possiamo accompagnare più piacevolmente i vostri pranzi. Buon appetito a proposito. Vi salutiamo. Un grosso saluto da Radio Città Fujiko, qui Luce nelle Tenebre. Stefano, Peppe, Flavia, Ilaria. Adesso a proposito, Stefano ci leggerà l'ultimo pezzo del libro, che è un libro piccolo piccolo che consiglio di comprare. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. Ma se metti in conto quanto ci è voluto di costanza nella grandezza d'animo e d'accanimento nella generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie di un enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Ah, come ti inganni se pensi che gli anni non andano a finire, è breve il gioire, i sani gli infermi, i bravi gli inermi, è un sogno la vita che parsi gradita. Vorrei tornare indietro per rivedere il passato, per comprendere meglio quello che abbiamo perduto. Viviamo in un mondo orribile, siamo in cerca di un'esistenza. La gente è crudele, è spesso infedele, nessuno si vergogna di dire menzogna, i giovani putti e gli uomini tutti, non vale il fuggire, si plachi l'ardire. Vorrei tornare indietro per rivedere gli errori, per accelerare il mio processo interiore. Ero in quinta elementare, entrai per caso nella mia esistenza, fatta di giorni allegri e di continue esplorazioni e trasformazioni dell'io. Ah, come ti inganni se pensi che gli anni non andano a finire, è breve il gioire. Vorrei tornare indietro nella mia casa d'origine, dove vivevo prima di arrivare qui sulla terra. Esistenza di antiche forme, di insegnamenti e trasformazioni dell'io. E trasformazioni dell'io.